In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse a Gesù: "Ti seguirò dovunque tu vada." E Gesù gli rispose: "Le volpi hanno le loro tane, e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo." A un altro disse: "Seguimi." E costui rispose: "Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre." Gli replicò: "Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio." Un altro disse: "Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia." Ma Gesù gli rispose: "Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio." Questo brano è un po' di difficile interpretazione. Sembra in alcuni punti che il Signore faccia mancare di carità a coloro che hanno il desiderio di seguirlo, ma ovviamente non è così, perché altrimenti non sarebbe il Signore Gesù. Gesù mai ci fa mancare di carità, ovviamente, no? È lui la carità in persona. Allora, come si spiega questo brano? Questo brano ci dice la radicalità alla quale siamo chiamati, alla quale è chiamato il discepolo che vuole seguire in tutto e per tutto il Signore. E qui questo tale, la prima persona dice: "Ti seguirò dovunque tu vada." E Gesù gli risponde: "Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo." Cioè la prima condizione per poter seguire il Signore da vicino è proprio quella di non cercare alcuna sicurezza umana, alcuna sicurezza nei beni materiali, alcuna sicurezza nelle realtà della terra. Il Signore non promette sicurezze. E quindi dobbiamo essere, se vogliamo seguire il Signore, dobbiamo essere pronti a questo. Allora, già da questa prima obiezione, no, che il Signore fa, dovremmo farci questo esame di coscienza. Io in che rapporto sto con le cose materiali? Cioè, i beni che io posseggo, li posseggo o sono i beni a possedere me? E come faccio a sapere se sono io che posseggo i beni o se i beni posseggono me? Bisogna vedere se sono troppo preoccupata, per esempio, dei beni materiali, se il mio primo pensiero appena mi sveglio è su questo, se qualunque preoccupazione mi baleni durante la giornata riguarda sempre, le cose materiali, e il segno che sono distaccata dai beni che posseggo, anche se magari ne posseggo parecchi, è se sono in grado di condividerlo con gli altri. Sia che ne abbia tanti, sia che ne abbia pochi, devo essere distaccata, perché se siamo attaccati a questi beni, sia che siano tanti o pochi, questi ci rendono schiavi, non ci rendono liberi, non possiamo seguire il Signore. Quindi non è tanto il possedere le cose che ci rende incapaci di seguire Gesù, ma l'attaccamento al possesso. E per non essere attaccati, il segno che non siamo attaccati è se siamo incapaci di condividerli con gli altri. Poi un altro gli dice: "Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre e poi io ti seguo." E Gesù dice una frase un po' che a noi suona un po' strana: "Lascia che i morti seppelliscano i loro morti." Ma sicuramente il Signore non vuole dire che non bisogna seppellire i morti, ma qui vuole far capire a questo tale che non bisogna aspettare. Ci sono persone, alcuni giovani che conosco io, che prima di decidersi di lasciare tutto per il Signore, anche se capiscono che magari potrebbero anche essere chiamati, avere la vocazione religiosa, però mettono tante scuse, sia questa appunto della famiglia, come in questo caso questo ragazzo dice: prima voglio seppellire mio padre, e l'altro ragazzo invece dice: prima voglio congedarmi da quello di casa mia. Insomma, il Signore che cosa ci sta dicendo qui? Che la chiamata da parte del Signore non ammette ritardi e non ammette nemmeno che mettiamo al primo posto altre cose all'infuori di Dio. Ecco, quindi per ricapitolare, possiamo fare un esame su come viviamo la nostra relazione con le cose materiali e anche con gli affetti. Se mettiamo troppa preoccupazione per le cose materiali e se mettiamo gli affetti per le persone al primo posto, tanto che ci distolgono invece di aiutarci ad avvicinarci al Signore. Buona giornata.